I. Ascolta e indica se senti G o doppia G. Se vuoi, trascrivi le frasi. 1. Cerchiamo un albergo economico. 2. Non è un oggetto prezioso. 3. Odio viaggiare in treno. 4. Luigi è a disagio. 5. Hai ago e filo? 6. Lavora per una ditta francese. 7. Si sposeranno a maggio. 8. È un vero mago.